Montecitorio e dintorni. Montecitorio e dintorni, ben trovati da Vincenzo Miglietta. Importante settimana quella che si sta concludendo a livello politico, parlamentare. Da una parte le polemiche più strettamente legate ai partiti, le fuoriuscite dal Movimento 5 Stelle, la sentenza della Consulta nei confronti di Silvio Berlusconi, le frizioni all'interno del Partito Democratico in vista del prossimo congresso, dall'altra l'accelerazione del governo sui provvedimenti economici, il decreto del fare, il disegno di legge sulle semplificazioni. Di tutto ciò parliamo oggi con il capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà Gennaro Migliore. Buongiorno Migliore, partiamo proprio dai provvedimenti economici del governo. Vanno nella direzione da voi auspicata? Riteniamo che ci debba essere una visione attenta su tutti i provvedimenti. Alcuni vanno nella direzione giusta, altri no. Quello che manca è la selezione delle priorità. Noi pensiamo che ci debba essere un vero e proprio shock per l'economia che rilanci realmente l'occupazione. Non bastano pochi interventi per mettere in discussione quello che è il vincolo determinato dal pareggio di bilancio e dai vincoli europei. Bisogna andare in Europa a chiedere che vengano scorporati tutti gli investimenti per creare nuova occupazione, e quindi noi abbiamo la necessità di avere una qualità anche di politica di questo governo che non si metta semplicemente nella scia di quelle che sono le decisioni prese dalla tecnocrazia. Peraltro io penso che sia stato un grave errore non affrontare immediatamente il tema degli esodati, che è da troppo tempo che langue e crea una destabilizzazione sociale enorme, così come per le coperture non si può dire rimandiamo a 3-4 mesi perché nel frattempo magari ci sarà un'altra evoluzione politica. Noi abbiamo bisogno assolutamente che ci sia un intervento netto, chiaro, su quelle che sono le capacità anche di spesa del nostro governo, e noi non possiamo ovviamente far risparmiare l'IMU ai ricchi per consentire a Berlusconi di fare propaganda. Migliore, andiamo nel concreto dei provvedimenti economici che interessano i nostri ascoltatori. Tra tutti potrei dire l'IMU, l'imposta municipale unica sugli immobili. Entro agosto il governo ha promesso una rivisitazione dell'intera tassazione sul patrimonio immobiliare. Cosa si deve fare secondo Sinistra Ecologia e Libertà? Sì, penso che si debba andare nella direzione della progressività, con l'esenzione delle fasce popolari da quello che è il pagamento della tassa sulla prima casa. Peraltro vedrei con favore l'accorpamento di tutte le tasse come la TARES per esempio, oltre che l'IMU, in una visione più progressiva, ma soprattutto vedrei che queste tasse dovrebbero essere tutte concentrate non per ridurre il debito pubblico ma per finanziare gli enti locali. Detto questo, la progressività comporta che chi se lo può permettere, chi ha una villa, un castello, una abitazione di pregio, deve pagarla questa tassa. Avere un atteggiamento, come dire, fintamente equilibrato fino al punto di creare una fascia di esenzione per chi se lo può permettere è uno schiaffo per tutte le persone che stanno soffrendo questa crisi. Sarebbe una misura, come lei ce l'ha spiegato, che potrebbe autosostenersi economicamente, ovvero esentare chi non può pagarsi la prima casa e far pagare invece chi ha i beni immobili adeguati? Ma l'IMU è una tassa patrimoniale. L'idea che le tasse patrimoniali siano piatte e non progressive è sbagliata. Se c'è una grande proprietà immobiliare che ha 1.000 case, 1.000 immobili, è evidente che dovrà pagare non solo percentualmente ma proporzionalmente di più di chi ha una sola casa. Il tema di Berlusconi è l'esenzione per tutti, quindi anche per i ricchi come lui, dal pagamento della prima casa. Il nostro tema è quello di estendere la progressività anche a chi detiene più proprietà immobiliari. È assurdo che chi magari ha un capannone e quindi un bene strumentale per la sua azienda paghi, mentre chi ha una rendita parassitaria no. Argomento di questi giorni è l'IVA. Ai primi di luglio scatterebbe l'aumento dell'aliquota. In questo caso si può evitare o ci sono altre priorità secondo lei? Si deve evitare perché è un'altra tassa non progressiva. L'IVA colpisce indiscriminatamente il consumo, quindi deprime l'attività del commercio e nello stesso tempo